Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Nella fabbrica delle streghe. Alberti, una storia tra liquore, torrone e letteratura. Di Raffaella Calandra. Sotto l'acqua e sotto il vento, sotto il noce di Benevento. Tra ampolle e distillati, il mantra delle streghe del Sannio sembra un sussurro del vento, appena varcato l'ingresso della fabbrica Alberti. Sicuramente la parola strega è il nostro elemento di riconoscimento maggiore, così evocativa, e ci collega in maniera forte a tutto quello che è il vissuto del territorio di Benevento e della leggenda che sta dietro a questo nome. Qualche volta quando vado all'estero mi dicono "How do you do, Mr. Strega?", pensando che sia un nome di famiglia, invece non lo è. Anche se lo Strega non è il nome di famiglia, Giuseppe Davino, bisnipote del fondatore dell'Alberti e ora amministratore delegato della società, il noce della loro tradizione l'ha voluto piantare anche nel cortile, al centro tra cantine che custodiscono filari di botti e laboratori che sprigionano effluvi di cioccolato. 150 anni dopo la fondazione, quel profilo adunco della strega, con la scopa e le danze di baccanti intorno all'albero magico, resta il loro principale bigliettino da visita. Una malia evocata dal giallo del liquore. Viene dal fatto che si crede che a Benevento ci fossero le streghe ancora nel Medioevo. L'origine di questa leggenda probabilmente sembra che risalga al fatto che Benevento ha avuto una dominazione longobarda. Allora i longobardi hanno portato dei riti che sembravano sicuramente strani alle popolazioni locali e quindi hanno intravisto qualcosa di magico, di esoterico, e quindi probabilmente da questo nasce la leggenda. Chi ha voluto tutto questo fu il fondatore Giuseppe Alberti, perché lui ebbe questa doppia intuizione, se vogliamo. La prima di carattere così merceologico, nell'aver inventato un liquore che avesse quelle caratteristiche. La seconda fu una trovata di quello che oggi si chiama marketing, e cioè di legare il nome, trovare un nome a questo prodotto che avesse questa forza evocativa, e lui lo trovò nel fatto della leggenda delle streghe. Non a caso quasi tutti i testimonial del liquore strega sono state donne, sebbene il liquore per anni e anni abbia avuto una connotazione maschile come target di riferimento, i testimonial delle stampe d'epoca, dei disegnatori, erano quasi sempre donne, forse anche proprio perché c'era un riferimento all'aspetto magico di queste streghe che potevano essere evocative verso il consumatore. E volti femminili di epoche passate sorridono sulle pareti della vecchia fabbrica in una sorta di galleria di stili e mode, dalle pieghe degli anni 30 all'euforia dei 50, dall'eleganza liberty alla velocità futurista. Anche per questo, scorrendo i loro manifesti, oggi che l'Alberti compie 150 anni con 12 mesi di anticipo rispetto all'Unità d'Italia, Davino ricorda come anche i loro sapori abbiano un po' accompagnato la storia di un pezzo del nostro paese. Sapori che ora hanno deciso di condividere, fin dalla ricetta. Così, gli anfratti della fabbrica, tra menta selvatica e lavanda, evocano il laboratorio della maga delle spezie. Da qualche tempo abbiamo invece deciso di svelare alcuni segreti relativi alla produzione del nostro prodotto. Perché? Perché pensiamo che siano dei punti di forza del nostro prodotto, in particolare il colore del nostro prodotto, questo giallo vivo che ricorda il sole, non deriva dall'uso di E123, ma dall'utilizzo di una tintura di zafferano, cioè estraiamo in fase acquosa la parte aromatica dello zafferano, sono i pistilli del croco, quindi una parte di una parte pregiata, e questo conferisce al nostro prodotto non solamente il colore, che è importantissimo e distintivo, ma anche un sapore, un profumo che nessun colorante potrebbe mai dare. Possiamo schematizzare in tre tipologie le spezie che utilizziamo per il nostro prodotto. Una è una pianta tipicamente locale, che è il nostro legame col territorio, è una pianta che cresce tra l'altro in maniera spontanea lungo i fiumi della Valle Telesina, che è qui vicino a Benevento. Abbiamo pure provato in passato a coltivarla, questa menta, ma il risultato non è lo stesso rispetto a quella selvatica, quindi speriamo che si mantenga anche la tradizione di coloro che ce la vanno a raccogliere, perché ci sono dei contadini che tutti gli anni ci portano il loro raccolto di erbe essiccate. Ci sono delle piante tipicamente mediterranee come la lavanda, la menta piperita, il ginepro, e poi ci sono delle spezie più tipicamente orientali come il chiodo di garofano, la cannella, l'ancestellato. Più volte altri hanno tentato di copiare quel liquore che al primo sorso affascina, al secondo strega, secondo un celebre slogan affidato a Silva Coscina nel Carosello. E le imitazioni con orchi, sirene, mare, maghi e maghetti vari, ora fanno bella mostra in bottiglie, messe in vetrina. L'imitazione da un lato è un po' un vanto, dall'altro, scherzi a parte, è un po' una piaga. Il danno che noi riceviamo da questo è doppio, perché da un lato abbiamo una perdita economica immediata, dall'altro, se non vi è la consapevolezza che si tratta di due prodotti differenti, abbiamo anche un danno forte di immagine, perché il consumatore che compra e beve un prodotto imitazione che magari giustamente non gli piace, e magari non ricomprerà quello buono una volta dopo. Noi pensi, abbiamo raccolto in giro una cosa come 300-400 diverse imitazioni del nostro prodotto. Tante le copie. Forse anche perché quel bouquet di odori, soprattutto a certe latitudini del mezzogiorno, parla di tradizione e di dolci impastati nelle cucine di casa, parla di sapori a lungo messi in valigia lungo le tratte dell'emigrazione. E guardare la diffusione del liquore Strega come dei torroni Alberti oggi equivale a fare un po' una mappa di gruppi di italiani nel mondo. Sicuramente la nostra terra è stata terra di emigrazione e ancora oggi ci sono delle comunità, per esempio in Australia, di sanniti che non riescono a concepire, per esempio, il Natale senza i nostri prodotti, senza i nostri torroni. Questo veramente fa piacere, fa venire i brividi a pensarci, perché tanto affetto, tanto legame rispetto a quello che è un prodotto del loro passato italiano è sicuramente è molto ammirevole. Ci sono delle persone, dei commercianti che certe volte vogliono essere spediti per via aerea i prodotti, dicono: guarda, ti costa una tombola. Dice: no, ma io non posso non avere il prodotto, mi sono scordato di ordinarlo prima, però adesso mandalo per via aerea, quello che costa ma ci deve essere. E quindi la nostra situazione della distribuzione estera, per esempio, del nostro prodotto riflette in larga parte quella che è la distribuzione etnica della emigrazione italiana, però non solo. Cioè, quello che ci ha sempre stupito è che da un lato ci sono dei posti dove indubbiamente noi abbiamo venduto in quanto c'era una presenza etnica italiana, in meridionale in particolare, per esempio in Argentina è stato così, in Brasile, in Nord America, in Inghilterra c'è stata questa, in Australia c'è stata questa immigrazione, però noi abbiamo degli ottimi mercati in posti dove la presenza italiana non c'è proprio, tipo il Messico, tipo la Svezia, che non sono posti di immigrazione italiana. Storia e tradizione, dunque. La stessa che ha legato quel liquore a uno dei più celebri premi letterari, il premio Strega, appunto. E tra ampolle e spezie, l'Alberti custodisce un proprio archivio di cimeli di letteratura nostrana. Foto in bianco e nero con Pasolini, Moravia, soldati, in visita nel cuore del Sannio. Scatti della dolce vita romana, con le bacheche del Ninfeo di Villa Giulia, a Roma, dove da 64 anni si proclama il vincitore dell'ambito riconoscimento. L'ultimo è andato al libro Canale Mussolini, di Antonio Pennacchi. Tutto nacque da una miscela trovata in quel salotto romano degli Amici della Domenica, che Cesare Pavese, vincitore del premio nel 1950, definì l'anticamera dell'eternità, in una lettera a Maria Bellonci. O a realizzarsi la condizione per la quale Guido Alberti, che era uno degli amministratori dell'epoca, dopo la guerra andò a Roma, soprattutto perché Benevento e Napoli erano città più bombardate, e lì si fermarono insieme a mio nonno e cominciarono a frequentare l'ambiente che c'era allora. Si trova a frequentare il salotto di Maria Bellonci, di Maria e Goffredo Bellonci, e discutevano, parlavano di cose di letteratura, insieme a un gruppo che si chiamava Gli Amici della Domenica, perché si vedevano al pomeriggio della domenica a prendere il tè e parlavano di cose culturali e letterarie in particolare. Subito dopo la guerra c'era molta voglia di uscire, di fare, di vedersi, e quindi si inventarono questa cosa di fare un premio letterario. Soprattutto chi lo finanzia, banalmente, e Guido generosamente si offrì di finanziarlo. Come lo chiamiamo? Già chiamavano premio Strega, anche perché questa evocatività del nome, insomma. Quindi nacque così, quasi per gioco, insomma, una ristretta cerchia di amici che si incontrarono la prima volta all'Hotel de Russie a Roma e fecero questa prima così edizione di questo premio. Ebbe immediatamente un successo, un seguito, e poi continuarono finché non si è arrivati ai giorni oggi. D'oggi siamo arrivati alla 64esima edizione, la prima fu del 47. Dimostrano, a scapita tonta delle polemiche che tutti gli anni ci accompagna, di essere ancora un fatto molto importante. Oggi viene gestito da un comitato scientifico tramite la Fondazione Bellonci, il cui presidente è il professor De Mauro, che ha sostituito Maria Bellonci e poi Anna Maria Rimoaldi. Il segno che ci contraddistingue è sicuramente dato dalla presenza di questo repertorio fotografico di cui in parte si nota in questi spazi espositivi che abbiamo allestito, e in parte ce l'abbiamo in archivio, e descrive la storia fotografica di questi 64 anni di Premio Strega, che hanno coinciso con lo sviluppo di una società come quella italiana, che è molto cambiata. Nei primi anni si vedeva il Conte Nuvoletti che stava lì a Valle Giulia, a vedere i giorni d'oggi, ma più politici per esempio rispetto a quanti ce n'erano prima. Insomma, è un fenomeno di costume ripercorrendo il quale si è uno spaccato dell'Italia interessante. La nostra caratteristica di premio letterario è sempre stata essere un premio non tanto paludato, e addirittura nelle primissime edizioni si ballava, pensi un po', questa liberazione che c'era stata è sempre rimasta un po' nella storia del premio, tant'è vero che la serata finale si chiama la festa, e questo è per certi versi attinente con quello di cui ci occupiamo tutti i giorni, perché noi facciamo un po' generi voltuari, insomma, più cibo per la mente che cibo per lo stomaco, perché la soddisfazione che può dare un buon dolce, un cioccolatino, un liquore, non è tanto nell'apporto calorico, che anzi forse non è tanto da considerarsi positivo, quanto nel gioire, nel godere di questi sapori che ti fanno, insomma, piacere, forse più alla mente che non allo stomaco. Sì. Dalla letteratura al cinema. Chi si ricorda che in 8 e mezzo di Fellini si scorge anche una grande riproduzione della Bottiglia dello Strega? Guido Alberti recitò in quel film e poi nel celebre Le mani sulla città di Rosi. È per questo che ora Davino mostra pezzi della scenografia nella sua fabbrica. Guido si trova a essere attore proprio in quegli anni. Si era appunto in quegli anni in cui c'era la Dolce Vita a Via Veneto. Allora avevamo un caffè che si chiama Caffè Strega, che stava a Via Veneto, e che era un po' il ritrovo del mondo, un po' della Dolce Vita, ma anche degli intellettuali dell'epoca. C'era per esempio il poeta Cardarelli, che veniva preso in giro perché anche agosto si presentava tutti i giorni a questo Caffè Strega con un sonoro cappottone spiegato. Le stesse persone che gravitavano intorno al Premio Strega si incontravano a questo Caffè Strega di Via Veneto, e in uno di questi incontri Guido conobbe Fellini, il quale poi ci ha detto: "Ma hai mai recitato?" Dice: "Perché non ci provo?" E non ci provo e la cosa andò bene, insomma. Città delle streghe come del Torrone, Benevento. Un connubio riprodotto nell'Alberti. 150 anni di storia per 14 milioni di fatturato e 70 dipendenti medi. Noi cerchiamo di non fare troppe cose, per la verità. Cioè, noi cerchiamo di fare un po' dalla A alla Z del prodotto. Non partire da semilavorati, non partire da aromi, non partire... cioè farci un pochino tutto. Lei ha visto prima nello stabilimento, e noi partiamo da una matrice vegetale, proprio delle piante, ed esce un liquore. Noi siamo nati come torronai perché Benevento, oltre che essere la patria delle streghe, è la patria del torrone. C'è un po' una piccola contesa con Cremona. A parte che sono tutte e due città longobarde, e poi diciamo salomonicamente, cioè loro sono la capitale del nord e noi siamo la capitale del sud, e quindi quando gli antenati si misero a fare una parte dolciaria, perché erano molto eclettici, fecero una parte dolciaria la cui specialità era il torrone. Per anni è stato il nostro principale prodotto dolciario, e da qualche anno a questa parte è cresciuta molto la percentuale del cioccolato nel nostro fatturato. Siamo tra i pochi della nostra dimensione, che è piccolina, che si fanno il cioccolato da sé. Un marchio molto legato al territorio, dunque. E in tantissimi, infatti, hanno risposto al richiamo della strega, inviando proprie ricette di dolci con gocce di liquore.